Zolt. Zolt. Fulminati in azienda. Allora carissimi, vi ho convocati per la nostra riunione strategica. C'è anche Centrifuga che è appena tornato dalla vacanza. Tra l'altro, ci vuoi raccontare brevemente com'è andata questa esperienza? Niente, dovevamo andare a Cuba. Poi il vulcano in Islanda è esploso e ci hanno deviato per la Groenlandia. Tempo di congelarci le mani e ci hanno fatto ritornare. 3 giorni, finita la vacanza. Bene, bene, dai, ti sarai ritemprato con le temperature polari. Signore e signori, ci serve l'energia di voi tutti per il progetto Tutankhamen. La mia ultima ideazione. Ma che bello, ma allora andiamo in Egitto. No, io non parto più manco se m'arresta. Ma quale Egitto, dai Sfinge. Il problema è che come sapete siamo indietro del 25% sul budget. I venditori nel frattempo pettinano le bambole. È che c'è la crisi, Marco. E la crisi invece non c'è, è che i venditori sono dei fancazzisti. E quindi ho pensato di fargli costruire proprio a loro, qui nel cortile della nostra azienda, una piramide. Un mattone per ogni euro di ricavo. Ma che crudeltà, come gli schiavi egizi li metti. Ma a quale crudeltà, Fon, sveglia, cerca di cogliere la metafora. Con la loro fatica, il loro sudore, vedranno crescere una mirabile piramide che sarà finita solo quando avranno raggiunto il budget, all'ultimo euro, cioè all'ultimo mattone. Bello, bello, motivante, gagliardo. C'è anche la cultura egizia dietro, sullo sfondo. Beh, bravo. Modestamente c'entri una mia idea. E poi, come colpo di scena finale, magari famo pure resuscitare Tutankhamen, dai. Allora, forza, NCS non ci siamo! Dai con quelle carucole là in fondo! Più veloci che la piramide latita! Com'è eccitante, tutti quei corpi sudati, quelle braccia che si intrecciano, quelle urla di esaltazione, guarda! Fonte, non so urla, sono imprecazioni. E poi i corpi sono sudati, ma pure flacci, una tristezza. Dai, là in fondo, prendete quello svenuto, dai che entraci al lavoro, per piacere! Carissimi centrifuga pacco, così non ci siamo. Tiratemi fuori il sistema incentivante speciale, che la gente non mi lavora abbastanza. Ma hai pensato pure degli incentivi per motivarli? Ma è schedula, fantastico, potremmo... Schedula, è il sistema incentivante speciale, è a frusta. Ma che frusta? Certo, c'è silenzio, come i veri egizi. Adesso Pacco va là, gli dà una frustatina, così mi accelerano un po' il ritmo del lavoro. Ah, no, mi sono contro la violenza, la frusta mai. Ah, Pacco, non è violenza, vedrai che poi quando raggiungono il budget, cioè finiscono la piramide, sono contenti. Ah, la disi, dottor? Beh, allora mi vado, eh. Pronto? Pronto, squalo grande, come stai? Oh, carissimo, alla grande, mi sono appena seduto qui da Nanda a farmi un chilo di pagliata. Tra l'altro mi sta chiede sempre di te, ma quando vieni a trovarci, Marco? Squalo, giustificami tu, lo sai che sono sempre impegnato. Allora, come hanno vissuto il progetto Tutankhamen i tuoi ragazzi? Voglio saperlo da te in viva voce. Guarda, sono quasi tutti a casa per curarsi le ferite delle frustate e gli stiramenti alle braccia, però alla fine si sono divertiti tantissimo. No, ma scusa, ma come sono tutti a casa? E poi cosa vuol dire che si sono divertiti? Sei veramente un genio, Marco, il numero uno. Anziché organizzare la solita convention nel parco, avventure o al villaggio vacanze, ti sei davvero inventato sta cosa per far gruppo, per costruire una piramide, guarda, un team building di tutto rispetto. Ma quale team building, squalo? Ma cosa hanno capito? Guarda che lì l'idea era un'altra. Ogni mattone della piramide rappresenta un euro di vendita. Ma se la metafora non era chiara, non raggiungiamo il budget, squalo. Ma Marco, scusa se te parlo forte metafora, ma quale Tutankhamen? La verità è che qui è il budget, non lo raggiungiamo manco se viene il Re Sole in persona. Zolt, fulminati in azienda. In edicola con il Sole 24 Ore, il libro rivelazione e il CD audio con la prima fiction umoristica che racconta i paradossi delle aziende.